Siete dei piccoli cialtroni che con l'inganno cercate di farli scoperchiare delle inutili pentole dentro le quali c'è un brodo che conosciamo benissimo. Quindi non rompeteci le scatole con questa sagacia che io trovo detestabile. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. La prima comunicazione oggi è questa: siamo in ritardo di 3 minuti rispetto agli orari normali della zanzara, che già sono a loro volta sempre in ritardo, caro Parenzo, perché il conduttore della trasmissione precedente, nonché vice direttore di questa radio, se ne sbatte i coglioni del lavoro degli altri. Eccolo qua. No, se ne sbatte il cazzo del lavoro degli altri, senza alcun veramente tipo di rispetto, si piglia 3 minuti così a buffo, a babbo. Allora, sai cosa ti dico? Allora, siccome... Sai cosa ti dico? Dimmi. Chiedo scusa se si sente male, sono a Pordenone, sì, eccetera, sì. Ma sciopero. Sciopero, bravo, contro Parigioni. Dovresti fare sciopero. Non si deve permettere, se la trasmissione inizia alle 18.30, non è che tu finisci alle 18.34, bravo, perché bravo, devi fare focus economia e sentire un altro dei tuoi. Perché non funziona così, amico mio. Quando il rullo della quando il giornale è andato in stampa, finito, non c'è tempo di mettere un'altra intervista, la metterai domani, amico mio, perché adesso c'è un'altra roba, bravo, da sentire, bravo, c'è la zanzara. Sì, io sono molto negativo. Sì, vabbè, ma che cazzo me ne sì, frega, sì, quando non alcune mi... cose vanno dette, vanno dette. Ma non me ne frega niente, ma non è possibile non rispettare sì, il lavoro degli frega, altri. Dai, c'è un sacco di gente che aspetta. Sì, ma mi deve rinnovare il contratto. Ho capito, ma questi sono cazzi tuoi, però, mica miei. Ho capito, ma l'hai fatto attaccare, se tu difendi. Vabbè, però, hai attaccato, basta, renditi. All'attacco di Parigioni, all'attacco dei poteri forti. Allora, meno male, ecco, scusatemi se mi intrometto un istante, ma non l'ho fatto negli altri giorni. Ci è stato in questi giorni un po' di fibrillazione all'interno di quel quotidiano, molto bene, solidarietà massima ai colleghi giornalisti che hanno occupato militarmente il Sole 24 Ore. A sì, questo proposito, ma nessuna occupazione, non c'è stata nessuna occupazione, sì, non si sono asserragliati. Vabbè, dentro allora... il giornale dei padroni, no, allora, quello no, che voglio dire io è: mettete a ferro e fuoco il giornale, buttate fuori dalla finestra le vostre scrivanie e urlate: ora il sole è nostro, abbiamo il sole in tasca. Io arriverò nelle prossime ore, perché mi trovo in Umbria nella mia tenuta Umbra, comprata con i soldi della Regione Lombardia. Sì, ovviamente degli stipendi parlamentari, degli emolumenti parlamentari. Arriverò nelle prossime ore, planerò alla sede del Sole 24 Ore e ne prenderò il comando. Quindi avanti così, avanti tutta. Bene ragazzi, oggi è finito in mezzo alla bufera Giancarlo Magallone. Giancarlo Magalli, il quale è diventato per me il numero uno assoluto. Più uno è politicamente scorretto, più uno è se stesso, più uno tira fuori quello che ha dentro, la sua anima wild, spesso la sua anima selvaggia, più entra nelle mie grazie l'amico Magalli, in questo caso, dopo aver detto, ti ricordi, forse è morta quella quando ha chiamato quella volta lì, forse questa sì, è morta, vabbè, dopo aver detto questa cosa ha fatto una battuta sul fatto che in un paese della Calabria un tale Antonio o Antonia, non mi ricordo chi cazzo è, non rispondeva al telefono. Ovviamente tutti hanno detto: i calabresi sotto attacco di Magalli. Sentite bene ragazzi, questo è il pezzo incriminato. Se vi suona il telefono rispondete fazzoloso. 2000 euro. Certo, l'ha fatta il signor Antonio di Casignana, provincia di Reggio Calabria, di Reggio Calabria. Ci abbiamo provato anche oggi, se poi voi andate in giro a scippare vecchie non è colpa nostra. Ma che dici? Lo fanno, stanno a casa perché a quest'ora si danno a queste attività criminali. Se poi voi andate in giro a scippare le vecchie, allora tutti i siti hanno titolato in questo modo. Adesso, per carità, non è la fine del mondo, non è il primo provvedimento di Trump, non è una cosa che rivolgerà i destini dell'universo, assolutamente. Però molti hanno detto: i calabresi vanno in giro a scippare le vecchie. Al limite è quel paese che ha chiamato, innanzitutto, che si trova in Calabria. Ma ragazzi, ma secondo me non ha detto niente di grave il signor Magalli. Su, adesso gli state rompendo i coglioni. Domani, anzi no, sì, domani è sabato, no. Più tardi proviamo a chiamarlo, signor Magalli, no. Non ha fatto niente di strano. Dai, su, ha detto una frase. Parenzo, la zanzara assolve Magalli o no? Oppure, secondo te, credo che ci sia un po' di, non dico scuse, ma si è detto dispiaciuto con i calabresi. No, non possiamo condannare nessuno, visto il linguaggio che viene quotidianamente utilizzato qui. Quindi lui, però, il fatto stesso che il Magallone, che il grande Magallone nazionale abbia chiesto scusa, o non sono le parole esatte, non lo so. Significa che l'ha fatta fuori dal basino. Significa che si è accorto di aver fatto una piccola gaffa. Vabbè ragazzi, torniamo col governatore del mondo, le governature del mondo. Questo è brutto invece. No, no, brutto. No ragazzi, governatore ieri. Del mondo, sì, ne abbiamo parlato già ieri, però oggi è tornato. Dico che è brutto, dico solo che è brutto. È tornato ad esternare, signor De Luca, è tornato ad esternare. E allora, anche Baglioni ha mandato un messaggio di violenza. Sentiamo De Luca. Saranno processati altri. Ho pensato in queste ore a Claudio Baglioni, no? Che guardava le magliette trasparenti. A pensarci oggi, ha fatto una canzone con il titolo Ma vammo riammazzata, che pensavamo fosse l'espressione di una divergenza ideologica. Dice invece era un messaggio subliminale, carico di violenza. E anche qui direbbe un camorrologo di corte e di salotti, messaggio carico di violenza camorristica. Ma vanno riammazzare. Saviano, signor Saviano, camorrologo di corte e di salotti. È un'espressione meravigliosa, devo dire la verità. Camorrologo di corte e di salotti, caro padre. Mi pare, ecco, lui dovrebbe però chiedere scusa. Mentre posso dire che però Baglioni non c'entra un cazzo. Scusa, governatore del mondo, scusami se te lo dico, però Baglioni non c'entra una stramazza di nulla. È una canzone, non c'entra niente. Però per sempre il governatore del mondo trovo grande difficoltà ad attaccarlo, non so perché. Sarebbe come dire che Marco Masini, il cantautore, è stato uno degli iniziatori del Movimento 5 Stelle, visto che scrisse la canzone Vaffanculo. Sì, Baglioni non c'entrava troppo, però aspetta un attimo che continua De Luca. Ecco, io credo per esempio che molti saranno processati anche attraverso, come dire, processi postumi. Credo che Alberto Sordi sarà chiamato sul banco degli imputati per le innumerevoli volte nelle quali ha detto ma vammo riammazzato. Quella che noi immaginavamo fosse un'espressione di folklore, beh, abbiamo imparato in queste ore che era in realtà una grave minaccia. Non un'espressione di gergo, ma un programma di azione. Ma vammo riammazzare. È il numero uno, c'ha ragione al 100%. Più lo sento e più gli do, lasciamo perdere Baglioni che ha sbagliato. Più sento questa cosa qua e più dico che ha perfettamente ragione, amico mio. Ha perfettamente ragione, ma l'amico De Luca, governatore del mondo. Ti amo sempre di più. Non recedere, non dare retta, non ti scusare, non attaccare Mediaset. Qui sbagli perché è una cazzata. T'hanno fatto l'intervista, amico mio, non puoi dire che l'intervista. Cioè, non attaccare, ma tutto quello che dici ti amo. Vammo riammazzato. È questa l'espressione che ha usato. Nessuno vuole ammazzare la Bindi. Nessuno vuole ammazzare le Bindi. Nessuno. Ma chi la vuole ammazzare? Nessuno l'ha messo in ma dubbio, chi la vuole ammazzare la Bindi? Che male fa? Qual è il danno che provoca a qualcuno la Bindi? Nessuno la vuole ammazzare. Togliete la scorta alla Bindi, non ne ha bisogno. Toglietela subito. Il problema della zanzara. Yale traffico. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta La Zanzara. Secondo me De Luca ha semplicemente sbagliato mestiere. Sarebbe stato un grande attore da premio Oscar, con quella dialettica, con quelle espressioni, con quel modo di parlare. De Luca numero uno! Allora ragazzi, grandi notizie vengono da Brescia, grandissime notizie vengono da Brescia, Parenzo, città del nord fiorente, dove esiste forse un giudice, come si diceva una volta, no? Esiste un giudice a Berlino, forse, a Berlino, no? Si diceva per altre cose. Per altre cose. Allora ti dico subito una cosa, gli agenti della polizia locale lo avevano multato pizzicandolo con la sua auto lungo la via delle Lucciole di Brescia, mentre contrattava una prestazione a bordo strada. Ecco. Un verbale da 516 euro da saldare con bollettino postale entro 30 giorni. Ottimo. Per evitare che la multa venisse poi spedita a casa, con la possibilità che finisse in mano a parenti, addirittura la compagna. No, no, andava spedita a casa invece. Vabbè, secondo te che sei un pazzo, vorresti spedirla a casa? No, no, spedita a casa anche la moglie. È messa anche la... la moglie. Dice, guarda che tuo marito va a prostitute quel maiale. Anziché occuparsi di te, comprarti un bel vestito, comprarti un piccolo anello, portarti fuori a cena, quel maiale di tuo marito va con una prostituta magari sfruttata. Io metterei proprio la lettera di accompagnamento, ovviamente quando sarò sindaco, questione di pochi giorni. Questione di pochi giorni, anche se si vota a giugno, ma questione di pochi giorni. Sì. Lettera a casa. Lettera però, a casa. Allora, il primo punto del programma. Allora, il primo punto. Ho capito benissimo. Il primo punto del programma politico di Parenzo. No, non è il primo. Uno dei primi. Il primo dei primi. Padova al centro. Vabbè, Padova adesso parlo al centro, vuol dire un cazzo. No, il primo punto concreto. Sì, è vero, sei un politico, è vero. Il primo. Poi ce lo dicono sempre. No, un momento. Rimettiamo al centro Padova. Che cazzo vuol dire? Ti candidi, per forza. No, non facciamo polemiche, Padova deve rimanere al centro. Certo, non mi... forza, fai il sindaco di Padova. Che vabbè, comunque, la sentenza di Brescia qual è? Che per fortuna, questo ha fatto ricorso invece di pagare, si è rivolto al giudice di pace, alla fine gli hanno dato ragione. Cioè il comune, attraverso una gabbola in realtà, un piccolo tecnicismo, il comune non può rompere i coglioni sul codice della strada, non può fare nulla. Ragazzi, è finita per voi sindaci contro i puttanieri, contro la gente normale che si avvicina alle mignotte. È finita. Fate ricorso subito, i giudici di pace in tutta Italia, ingolfate i tribunali, sputtanate voi sindaci che non hanno il potere di fare questa cosa. All'assalto, via, iniziate, rivolgetevi a questo avvocato, magari dopo lo chiamiamo. Allora, io amo molto Montanini, come sai, caro Parenzo, moltissimo. Lo conosco, mi piace molto la sua satira, soprattutto per il linguaggio che usa, molto esplicito, eccetera. Mi piacciono i monologhi di Montanini. Ho trovato questa roba su Briatore, su Rai 2, ma comunque ve la faccio sentire, Montanini su Briatore, sul livello culturale di Briatore. Ma non perché conosco Briatore, perché non me ne frega un cazzo, cioè non è che è mio fratello, né gli devo qualcosa. Semplicemente perché è un luogo comune questa cosa di Briatore poco intelligente. Com'è che si misura l'intelligenza? No, anzi è molto intelligente. Secondo Montanini, secondo il mio amico Montanini, come si misura l'intelligenza? Vabbè, ma Montanini fa satira però, scusami. No, però che c'entra, fa satira, ma non gli dire così che fa solo satira, perché si incazza pure. Cioè non è che fa solo satira. È un comico, No, ma è diversa la cosa. È un comico il quale esprime però delle idee attraverso i suoi sketch, attraverso i monologhi. Cioè è un programma politico, non diciamo cazzate, dai, via. Briatore, si sente figo. Eppure c'è il livello culturale di una scrivania. È fisicamente come una scrivania. Eppure si sente figo. Ma perché? Perché c'è i soldi? No. Ma qual è la cosa che a Briatore gli piace? Voi, che lo guardate dal billionaire mentre stappa una bottiglia di 6.000 euro di champagne che mai berrà, ma gli occhi tuoi che lo guardano adorante con la bava alla bocca e dici quanto vorrei essere lui. Quella è la spinta che dà Briatore la forza di andare avanti. Dice, una vita de merda ma lo faccio perché tu mi invidi. Togliete l'invidia, da invidiosi dovete passare a invidiati. Il punto di vista verso Briatore spostatelo verso i negri. Quelli vi invidiano. Potete essere i Briatori dei negri che vengono qua. I negri servono, fate sentire più ricco. Solo quello. No, quest'ultima cosa è anche geniale, per carità. Però a livello culturale è una scrivania. Adesso, che cazzo ne sai, è Montanini. Probabilmente ha letto più libri di te. Vabbè, abbraccio lo stesso, Luciano da Lecce, vai, Luciano. Luciano. Buonasera. Vorrei fare una semplice domanda al nuovo sindaco Parenzo, il signor Parenzo. Sì, prego, il sindaco l'ascolta. Dovremmo chiamarti sindaco invece, sai che è buona come cosa. No, beh, aspettiamo, c'è questo dettaglio del voto che avete. Appunto, per dettaglio, questo, siccome il voto è un dettaglio, lo dovremmo chiamare direttamente sindaco. Vabbè, Luciano, allora? Allora, premetto che io ho una figlia che studia a Padova e si trova non bene, ma benissimo. Ottimo, perché diciamo la verità, Bidonci è uno dei sindaci migliori che ci sono. No, stati, no, arriviamo. Comunque, vorrei fare una semplice domanda al signor sindaco. Se lui ha figli e se verso le 9 di sera li può far uscire vicino alla stazione. Guardi, caro cittadino, sì. Io ho tre figli di età diverse, sì. La prima di 9 anni, il secondo di 3 e mezzo e l'altro di 8 mesi. Che cominceranno fra poco a frequentare le scuole di Padova, per cui bisogna anche interessarsi. E attualmente studiano nella capitale, Roma Urbe. Vabbè, allora dai, veloce, vai. E non, qua penso di Padova. Non penso che ci siano grandi problemi di sicurezza in alcune zone della città di Padova, ovviamente come in tutti sono delle piccole criticità che andremo a risolvere, ma noi non siamo quel partito che istiga all'odio. Cioè Padova è sicura, ti stai dicendo? Io non difendo sicuramente il signor Bidonci perché non lo conosco, però dico che se un sindaco si rende conto che non può garantire la sicurezza dei suoi cittadini, fa bene a chiudere le 8:30 i bar, i kebab. Vabbè, Luciano, ciao, andiamo a provincia di Ravenna, vai Matteo. Matteo, pronto? Dimmi Matteo, dimmi. Pronto, ciao Giuseppe. Niente, volevo farti presente, mi sono trovato nella buchetta della posta un volantino incredibile dove parla emergenza gender a scuola. Praticamente consigli utili per genitori e insegnanti preoccupati per l'avanzata dell'ideologia gender nelle scuole. Lo trovo veramente incredibile, senza nessun tipo di non so neanche io, sono rimasto non so di che male. Stai parlando, scusa, non so di che stai parlando. Il ragazzo è confuso, Non so di che stai parlando. Cosa vogliono fare a scuola? Perché sei preoccupato? Non ho capito. Di cosa sei preoccupato? No, praticamente fanno del terrorismo gratuito parlando di questa. Vabbè, non so di che stai parlando. Come faccio? Fanno chi? Ci vuole un soggetto, un verbo e un complemento oggetto in genere delle frasi. Il soggetto è un gruppo che si chiama SOS Ragazzi. Soggetto. Vabbè, un gruppo. Allora, Matteo, ho capito. A te piacciono i froci? No, domanda diretta. Matteo, ti stanno simpatici i froci? Sì, non mi hanno fatto niente, non trovo niente. Sei omofobo? Di... Pensi che siano personaggi? No, assolutamente no. I transessuali, che ne pensi? Tranquillissimo, non ho Tranquillissimo. Nessun tipo di problema. Se tua figlia fosse omosessuale e lesbica, avresti problemi? No, assolutamente no. Lo consideri un peccato? Assolutamente no. Vuoi il matrimonio? Vuoi il matrimonio tra gay? Sì, non vedo il problema. Vuoi l'adozione dei bambini da parte dei gay? Sì, non vedo il problema, sì. Benissimo, sei promosso, ciao. Se Parenzo diventa sindaco di Padova va a gostare ad Albettone. Sono Gigi Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Gigi Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da... Stufe e caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. OneExpress.it, il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. Cruciani, niente, volevo sapere se anche tu al mattino, quando ti alzi, prima di metterti i calzini del giorno prima che sono lì per terra, li annusi per sapere se si possono usare ancora una giornata, perché a quanto pare in tanti facciamo così. Ciao ciao! Beh, caro amico, caro ascoltatore della Zanzara, devo dire che non solo è una mia usanza, ma uso lo stesso calzino finché, diciamo, la puzza non raggiunge livelli quasi insopportabili. Mamma mia, ragazzi, che schifo. Ma perché che schifo? Mamma mia, trattasi, ragazzi, della vita comune, della vita ordinaria. E credo di usare... No, non è la vita, questo non è la vita ordinaria. Cioè, se sei una persona... Io non capisco come fa una donna a starti vicino. Ma o anela avere questi odori repellenti, oppure non c'è una ragione, figlio mio. Ma come fai con allora, una ragazza? Allora, non c'è nessuno... Non c'è nessun odore repellente. La questione è fondamentale. Tu hai detto ieri... A parte che sai benissimo... che la maggior parte delle donne diciamo guardano altre cose, non l'odore repellente, guardano, come dire, a un altro tipo di odore, un altro tipo di odore, la simpatia, un altro, sì, certo, non c'è dubbio, un altro tipo di odore, un altro tipo di odore, però lasciamo perdere adesso, va bene, allora? però l'imbarazzo cazzo con il quale tu ti togli le scarpe quando te le vai, o mai a letto anche con le scarpe? Se diventa normale, andrà a letto anche con le scarpe. Vabbè, un sacco di gente, va a letto con le scarpe, cioè, non c'è dubbio. Qualche io volta... vorrei che le donne all'ascolto adesso telefonassero e ci dicessero se vostro marito, il vostro compagno, il vostro amante, quello che volete andasse voi, a letto con la stessa maglietta, dice. Stessa maglietta, con le stesse mutande per una settimana e con gli stessi calzini. Allora, le stesse mutande per 4 giorni le ho fatto più volte. E ma i calzini li ho usati la stessa tecnica. Ma che tipo di attrattiva può avere? La io, stessa, io una domanda, la stessa tecnica che ha utilizzato prima l'ascoltatore. Ti svegli la mattina, quando a un certo punto devi vestirti, purtroppo dico io, per iniziare la giornata, vai a vedere il calzino per terra. Spesso io lo getto per terra senza alcuna, così accanto al letto oppure sul divano. Se lo getti sotto il divano, il tuo povero cinganese, no, che viene quello no, a, assolutamente a pulirti la casa. A proposito, proprio... credo si va a sposare adesso. Summit si chiama. Summit si va a sposare. Io dopo 6 anni a sapere come si chiama. Summit, allora la questione fondamentale è questa: uno butta il calzino, poi naturalmente che fai? La mattina, la prima cosa che fai quando ti devi vestire, vai a vedere se puzza. Se non puzza troppo, beh, rimetti. Cioè, se gli stessi colori si possono abbinare, il nero e il blu, di solito io uso, beh, rimetti senza dubbio. Ma che schifo. Cioè, non vai là a fare la cosa, no, l'ho usato ieri, 2 giorni fa, e di io solito... addirittura le volte me lo cambio anche 2 volte lo stesso calzino si può utilizzare, credo, per 3 giorni di seguito. Ma che schifo, ma ragazzi, forse qualche volta l'ho utilizzato anche per una settimana, credo. Lo stesso mia, identico ma, proprio, ma sei, perché sei così repellente? Canzoncina su Parenzo e Padova. Canzoncina su Parenzo e Padova. Lo chiamavano David Parenzo, rompeva i coglioni, rompeva i coglioni. Lo chiamavano David Parenzo, rompeva i coglioni su ogni argomento. Appena uscito dal tribunale con una querela contro Donato, tutti si accorsero in un istante che i miserabili avrebbe insultato. C'è chi i coglioni li scassa per noia, chi se lo sceglie per professione. David Parenzo nell'uno nell'altro, lui rompe il cazzo per passione. Potrebbe essere una colonna sonora per la candidatura a sindaco. No, ma è qualcosa di geniale. Ma guarda, questo è un paese, chiudiamo qui, un paese, voglio chiudere su questo, guarda, un paese straordinario, meraviglioso, di talenti, stanno producendo slogan per la campagna elettorale. Sarà una campagna elettorale a costo zero, la prima campagna elettorale a costo zero, dove daremo, regaleremo la possibilità ai cittadini di mettere la loro creatività al servizio. È quello che bisogna fare, è quello che bisogna fare. Questo stiamo già facendo. Bisognerebbe fare anche nelle aziende che progettano per esempio i nuovi loghi, no? Sì. Parlo in dico in generale. Quando un'azienda progetta un nuovo logo, sì, un nuovo tanto, logo. No, non voglio dare dire una comunque libera la voglia di fare. No, ma no, non voglio dire. Invece di pagare vabbè, dei signori, bisognerebbe promuovere, spesso questa è un'indicazione che do a molte aziende. Invece di pagare consulenti inutili, spesso inutili, aziende che si occupano di immagine, che non sanno un cazzo, ma non dico in generale, veramente dico in generale. Prendete e lanciate concorsi, grandissimi concorsi tra i giovani, che si possono inventare nuovi marchi, che si possono inventare nuovi disegni. Presentate, sì, meno di quello che si fa pagare un'azienda normale. E poi una grande mostra di tutto questo. Un momento, il lavoro va pagato, ragazzi belli. Noi negli anni 60 lo dicevamo ai padroni, il lavoro va pagato, grazie. Vabbè, ma che cazzo vuol dire? Nessuno dice non vuole pagare. No, vuol dire che se tu vuoi, non lo so, però sei arrabbiato, giustamente, se tu vuoi far tutto gratis. Ma no, ragazzi, gratis, ma lei non hai capito bene. Comunque, ragazzi, qui siamo a riassumere quello che è avvenuto ieri, incredibile, alla Zanzara, dove Sgarbone ha attaccato a spada tratta Saviano. Senti. La pericolosità sociale di Saviano è nell'utilizzare la mafia solo per vantaggi personali. Perché qualunque giornalista, anche Parenzo, anche tu, attaccano la mafia, tutti noi la attacchiamo. Perché lui ha la scorta? Perché lui ha i libri che vende? Perché è più pericoloso di un altro che scrive sulla mafia? Usa la mafia per vantaggi personali. La scorta è la cosa più comoda del mondo. Non bisogna protestare per la scorta, come fa Saviano. sulla scorta ha costruito il mito di quello che dice: io vivo sotto scorta, io sono io soffro, povero, io l'ho avuto la scorta, l'ho avuto la scorta, è la cosa più comoda del mondo, non paghi una multa, non rispetti i semafori, fai quel cazzo che vuoi, non puoi dirmi che ne soffri, non viene letto con te la scorta, è un ipocrita, chi ha la scorta come grasso ha solo vantaggi. Poi scatenato è intervenuto Parenzo, di seguito il senatore Vincenzo Danna. Verdiniano, dunque, diciamo, fa parte della maggioranza, questo bisogna sempre ricordarlo, eh? A parte che ha litigato con te, perché ovviamente tu lo hai chiamato Danno, il senatore Danna. Ho ricordato senatore. I suoi passaggi di casacca. Allora, cosa ha detto Danna? Cosa ha detto Danna? Ha detto una cosa molto forte sulla Bindi. Noi diciamo, scusa, la Bindi è stata accusata da De Luca, eccetera, eccetera. Magari ha qualche pericolo, no? Corre qualche pericolo, è presidente della commissione antimafia. Senti un po', secondo Danna, l'unico pericolo che corre la Bindi. L'unico pericolo, l'unico nemico che c'ha la Bindi è madre natura. L'unico nemico della Bindi è madre natura. Cioè, sostanzialmente dice: madre natura ha tirato un brutto scherzo alla signora Bindi. Mi sembra che volesse dire questo, no, Parenzo? Se non sbaglio, Mi pare di sì, mi pare di sì. Mi pare che sia stato volgare e offensivo. E offensivo, quindi, però, per carità. Ha detto che è brutta. Poi passo io per morale. Sarà bello lui. Beh sì, certo, non è un modello Danna. Chiediamo alle donne italiane che digitano su Danna Google, certamente non è un la modello. Parola Danna, poi ti dicono forse cercavi, sai quando sbagli a scrivere, dice forse cercavi, ti umilia Google in qualche modo quando sbagli a scrivere la parola. Allora, no? De Luca oggi è tornato a parlare, non ci sono giornalisti e possiamo parlare liberamente, hanno intercettato un audio, poveraccio, ma perché fa così De Luca? Non capisco. Cioè, una cosa pazzesca, sono arrivati fiumi di soldi per il referendum, fiumi di soldi. Noi abbiamo fatto una chiacchierata con Renzi, 270 milioni di euro per Bagnoli e ce li ha dati, altri 50 milioni e ce li ha dati, terra dei fuochi, mezzo miliardo di euro. Quando abbiamo discusso questa cosa lui era terrorizzato, perché dice: se facciamo mezzo miliardo di euro per la campagna, la Lega Nord ci fa pezzi su tutto il centro nord. Abbiamo chiesto finanziamenti per la Reggia di Caserta, per Pompei, per Ercolano, per Pestum, sono arrivati fiumi di soldi. Sono arrivati fiumi di soldi per la Campania. Vabbè ragazzi, andiamo, dai. Andiamo con Marco, Genova, dai, Marco. Marco, buonasera, vai, dimmi. Lorenzo, e buonasera. Vai, Cruciani. Vai. No, una cosa, Cruciani, non capisco. Io, anche a me piace il politicamente scorretto. Io non capisco come possa trovare De Luca politicamente scorretto. No, io lo trovo geniale, non politicamente scorretto. Un genio. No. Lo trovo un genio della comunicazione. Vabbè, un genio. Ecco, io non lo so, però ora tira fuori Alberto Sordi, che è indimenticato sicuramente. Ora forse mi rendo conto che... No, ma le espressioni degli attori quando lo dicono vai a morire ammazzato, eccetera, non sono pertinenti. È un altro mondo. Su questo non c'è dubbio, l'ho detto prima, l'ho detto. No, ma dico, secondo me sta cercando visibilità. No, per ma quello... ma non ha bisogno di visibilità. Il problema è che ha utilizzato un'espressione... Gli che è aveva... scappata. Ma sì, ma gli sarà anche scappata. Ma va bene, ma scusate, ma io credo che Alberto Sordi sia indimenticato. Io credo che De Luca non ce lo dimenticheremo, nel senso che non ce lo siamo neanche mai ricordato. No, tu dici che lui è un personaggio che dimenticheremo mentre Alberto Sordi rimarrà nella storia. Ma voglio dire, può anche darsi, Baglioni, voglio dire, un autore, sono 30 anni, persona seria. Ora, una canzone camoroide, questo piccolo grande amore. Ora, io volevo capire, Cruciani, ora lei si è spiegato, mi fa molto piacere, perché politicamente scorretto, secondo me sta sparando cose a caso, anche perché... Io, insomma, ricordiamo tutti politicamente scorretto. Vabbè, ti sta sulle palle De Luca. Bene, Nicola, no, da Padova, no. Dai, non ti sta sulle palle, ha detto una cazzata. Dai, Nicola da Padova, secondo te, Nicola, sì. Vai. Ciao, grazie. Vai. Ragazzi, ascolta, un bacio a te che mi hai insegnato a fare la cacca nel modo più geniale. Bene, sono contento con lo sgabellino 30 gradi, 30-35 gradi. Cano, mi raccomando. La grande, pisci anche nel lavandino? Pisci anche nel lavandino? Allora ti racconto questa, io vivo per alberghi per il mio lavoro, sì, e ho scoperto che pisciare sul lavandino è una deviazione mentale incredibile. Cioè è bello o no? Non è bellissimo. Sì, però io non l'ho mai fatto fino adesso, devo dirvi la verità, non l'ho mai fatto. Parenzo, però senti da Padova. Questo sicuramente non è un elettore della lista Parenzo, questo sicuro. Parenzo, io chiamavo per te. Allora, sono padovano come te, siamo ma uno che dice di urinare. Aspetta, Nicola, non puoi snobbare il voto delle persone che sono contro di te. Devi convincerli a votarti, convincere anche quelli che sono contro. Devi includere, non devi dividere. Pare, imbiccati, pare. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta La Zanzara. I've been driving all night, my hands wet on the wheel. There's a voice in my head that drives my... Vai Parenzo, a Washington Melania, a Padova Natania. Questa è buona però, questa è buona. È molto divertente. La First Lady padovana, Melania a Washington, Natania a Padova. Stupendo, devo dire che sono dei geni. No, sono dei geni. Ma questa è l'Italia migliore, capito? Ma che vuol dire? Dai, che vuol no, dire? No, perché è il genio italico, cioè quella parte ironica, divertente del paese, non la parte livorosa, cattiva, con la bava alla bocca. No. Allora, ragazzi, a proposito dei calzini, uno mi scrive. Io voglio sentire il commento delle donne. Aspetta, adesso arriveranno. Uno mi scrive: io faccio la stessa cosa, perché se lo si annusa appena tolto il calzino, ovvero da caldo, puzza molto di più e uno rischierebbe di metterlo inutilmente a lavare. Invece, è giusto annusarlo al mattino, in quanto spesso è pronto per il riutilizzo. Ma non c'è niente di strano, è normale. Cioè, non si possono lavare ogni... Tu sei uno che spreca. Sei uno che spreca acqua. Sei uno sprecone. Mi lavo, certo. Allora, eravamo con Nicola da Padova. Il quale, a proposito, fermo, Nicola, prima di raccontarci quello che ti è successo, credo con una prostituta, giusto, Nicola? Sì. Che sì, ti è successo? Sì. No, anzi, raccontacelo subito, vai. Beh, quando... era appena venuta fuori la questione che davano la multa di 500 euro se ti ficcavano con qualche mignottona. Io facendo un giro una sera, ma un semplice puttan tour, mi ero affiancato a una bellissima ragazza. Ma tanto il nuovo sindaco di Padova, che è qui in collegamento oggi da Pordenone, per Pordenone Pensa, bravo, rassegna... diciamo di un certo spessore, oppure no, c'è anche l'amico Facci, stasera c'è Feltri, vabbè, comunque faremo, insomma, un dibattito sul razzismo in Italia, va bene, stasera andate tutti a Pordenone se avete la possibilità, a picchiare anche Parenzo se volete, assalto, sì, all'arma bianca, sì, anche sì, con sì, striscioni e tutto. Allora, sì, dico una cosa, il signore che sarà prossimamente sindaco di Padova vuole multarti, caro Nicola. No, ma non solo, vuole che la tua foto, tu sei fidanzato, sei sposato? Ah, io sono separato e adesso ho fidanzato di nuovo. E vai lo stesso a puttane? Vai ugualmente a puttane? Capita che vada a puttane. Capita, giustamente. Sì, la tua fidanzata ascolta la radio? No, la mia fidanzata non ascolta la radio. E comunque anche la mia fidanzata non penso che si faccia scappare qualche bella occasione, perché le donne sono mia, come ragazzi, noi uomini. Ma sei uno spettacolo, tu, amico mio. Ma mi stai dicendo di che la tua fidanzata tromba e tu lo sai? Ma sei un modello assoluto. Io so che siamo tutti cornuti, caro. No, amico mio, io non vorrei ritornare su questa discussione. Se a voi piace essere dei cornuti, sono fattacci vostri. Io, francamente, l'idea di essere un cornuto un po' non mi va. Però io capisco, a voi piace essere cornuti, vi piace tornare a casa. No, tu stai sbagliando, Parenzo. A lei piace tornare a casa e trovare la sua compagna che si sta divertendo con un suo amico. No, ma io sono... Se le piace, non è che glielo vieto. Ma io non sono felice di... Se sapessi di essere cornuto, sicuramente non sarei felice. Parenzo, futuro sindaco di Padova, ti dico questo, tu non conosci proprio. Vabbè, insomma, non ho capito come sei riuscito. Sei stato multato quando ti ha fermato la polizia? No, mi hanno affiancato questi bei vicilotti minacciandomi di darmi la multa, perché appunto non so. E gli ho detto: ma scusate, questa signorina è la mia ragazza che fa la puttana, non posso colloquiare con la mia ragazza. Insomma, hanno fatto una piccola risata. Ah, tu sei riuscito ad adottare un escamotage. Ho avuto la risposta pronta. Vabbè, ma perché perché questi sono stati clementi in realtà, perché potevano tranquillamente... Certo. Ma io non ho capito, a Padova già esiste la cosa della multa, a Padova, non credo che Bitonci abbia... Ma da anni che è venuta fuori, ancora col governo Berlusconi c'era... No, ma la cosa che ti multano a Padova... No, ma stai attento, non va fatta 500 eurini, 500 eurini. No, Parenzo vuole andare oltre però. Farei la foto e poi la manderei a casa alla signora, alla nuova sua signora, dicendo: come ti chiami tu, come si chiama lei, scusi? Si chiama Nicola. Nicola. Nicola, ecco, la lettera firmata dal sindaco, ma la firmerei, la scriverei di mio pugno proprio. Dico, cara signora, adesso non so come si chiama la sua fidanzata, cara signora Francesca. Cara signora Francesca, il sindaco di Padova, David Parenzo, la informa che il suo fidanzato alle ore 10:22:45 del giorno tal dei tali si trovava in via Buonarroti e stava facendosi fare un servizietto da una prostituta. Cioè, dopo tu descriveresti... Ecco, vedi, questo è sbagliato, ecco, perché io non ho detto che stavo scopando, io stavo solo parlando. Vabbè, ho capito, però Parenzo sta dicendo che manderebbe il dettaglio alla tua fidanzata da sindaco. Sì, ma non solo la fidanzata, anche alla ex moglie, in maniera che riveda gli alimenti. Ma tu sei veramente no, un momento, in maniera che riveda gli alimenti, perché se uno ha i soldi per andare a prostitute vanno rivisti gli alimenti alla ex moglie. E fatto questo, andrebbe fatto, bisogna vedere se abbiamo i soldi in comune per farlo, però stiamo studiando anche questo, all'ingresso della città un grande cartellone tipo quelle che ci sono nelle stazioni, anziché mettere gli orari dei treni, i nomi e i cognomi dei puttanieri del giorno. Certo, Nicola Pulito va a puttane. Saremo un ragazzi, enorme pubblicità. Ragazzi, però bisogna anche che ti prendi i voti di delle persone normali, Parenzo, perché altrimenti dove cazzo vai? Alessandro, provincia di Varese. Per avere una città, non vuoi i voti dei puttanieri, dillo chiaramente, non voglio i voti dei puttanieri. Prostitute free e senza lo sfruttamento delle donne, sono convinto di avere tutti i voti delle donne, peraltro. Avrò i voti di tutte le donne della città. Ma quello è probabile. Alessandro, provincia di Varese, delle mogli sicuramente. Alessandro, delle mogli, delle donne, certo. Vai Alessandro, ciao, dimmi. Bruciani, prima di tutto sei un cavallo. Secondo, anch'io non mi sono calze. Sono un cavallo, da corsa, è un cavallo, da corsa, che vuol dire? Spiegamelo. Che sei un grande. Ah beh, grande, vabbè. Anch'io non mi taglio le calze e anch'io piscio nel lavandino. No, io non piscio nel lavandino, i calzini quante volte te li cambi, scusami. Ma una volta ogni 2-3 giorni, dipende. Ma giusto, ma è così, Parenzo. Noi siamo quelli virtuosi, noi, io, Alessandro ed altri, siamo quelli virtuosi che non sprecano risorse, che non danno da lavorare alle lavanderie che sprecano un sacco di acqua, che accumulano i panni e poi... Davvero, quando alla fine il calzino è intorcinato, sporco, e ci rendiamo conto anche noi che non è possibile andare avanti così, perché altrimenti l'odore, Parenzo, fuoriesce dalle scarpe, capito? E se tanto delle persone fa così. L'altra cosa, parlando di mignotte, invece di rompere i coglioni a quelli che vanno a mignotti, che saranno problemi loro una volta accertato che queste non sono sfruttate ad andare a trombare, ma invece di sprecare tutte queste energie, scassare il cazzo a quella gente qua, magari lavorare un pochino per metterle in regola e metterle in un angolino dove non danno fastidio magari alle famiglie con i bambini che le vedono per strada, no? Ma non lo so, per me bisogna fare, amico mio, la prostituzione è ineliminabile, ci sarà sempre anche per strada, bravissimo. Una piccola parte, bisogna fare la legalizzazione. Alleluia. Bordelli, case Cruciani, chiuse, appartamenti, tutto quello che è possibile legalizzare senza rompere i coglioni a nessuno. Poi punire lo sfruttamento in maniera durissima se ci sono papponi, eccetera. D'altra parte, i papponi si possono riconvertire, perché i papponi possono aprire dei bordelli, eccetera, se non hanno precedenti penali. Se non hanno precedenti penali, naturalmente. Va bene. Silvio da Monza, dai. Silvio, ciao Alessandro, Silvio da Monza, vai, dimmi. Sì, pronto? Dimmi, pronto? Sì, dimmi, vai. Sì, ciao, no, volevo sapere se secondo voi il riutilizzo del calzino è applicabile anche alla mutanda. Beh, la mutanda, ma guarda, è uno schifo, ragazzi, dai, non è possibile. Io, per esempio, almeno 4 o 5 giorni la riutilizzo. Mi stai ponendo un dilemma. Allora, la mutanda, è chiaro che bisogna utilizzare la mutanda scura, perché esteticamente, quando uno la vede, è chiaro che se c'è un po' di... se c'è qualcosa su quella bianca, tendi a non metterla, no? Per esempio, io non la tolgo neanche per dormire, quindi faccio 4 o 5 giorni con la stessa mutanda. Tendenzialmente, esatto. Beh, con la Parenzo, stessa mutanda. Buono, questa è buona. Direi che è una buona esperienza. Quella di Silvio che io condivido, perché spesso a me succede di andare di utilizzare la stessa mutanda anche per 3 giorni di seguito, dormendo, eccetera. Sicuramente ci sarà della sporcizia. Però che vuoi fare? È più forte, vince sempre la pigrizia. La pigrizia di cambiare. Vince sempre la sporcizia, non la pigrizia, la sporcizia. Ah, ciao. Siete veramente pietosi. La zanzara. Allora, ragazzi, come vi ho detto all'inizio di questa puntata di oggi, che vede Parenzo collegato. arrivato da Pordenone l'audio, devo dire, quello di Pescara, della capitaneria di Porto di Pescara, imbattibile l'audio. Questo qua dell'albergo purtroppo ci dobbiamo accontentare. Ma però non è un albergo, bisogna ringraziare la struttura. No, dei... ma io lo sapevo che era un posto dove c'era un po' di dietro, no, un po' di eco, un po' di eco. No, di... i preti, ma perché è una struttura dei preti. I preti, ma sì. Che sei scemo, i preti? Che ti fa ospitare i preti? Ma gli hai detto che era per il diavolo il collegamento? No, io gli ho detto che era per questo, Zuzzare, questo è buono, questo è buono, no, questo è buono. Richiesta per un'altra. Sta girando un video, tra l'altro, sta girando un video, mi mandate continuamente questo video, della Boldrini che fa un discorso sull'integrazione e accanto un extracomunitario che si pulisce il culo e insieme anche la faccia con le stesse mani, no? A una fontana che sembra essere a Piazza Navona. Cioè, la Boldrini è un video che sta diventando virale. Dice: questo è l'esempio di integrazione, con la Boldrini che parla a mezzo schermo e nell'altra parte dello schermo c'è un immigrato, sembra un immigrato, un rom, il cazzo che è, che con le mani si pulisce il culo nudo, mezzo nudo, in mezzo alla piazza. Questa è l'integrazione della Boldrini. Questo è il senso della cosa, ragazzi. Il senso di questo sketch, caro Parenzo. Però potresti anche ridere su queste cose, non è drammatico, eh? Sì, per carità. Allora, non ti fa ridere. Dillo, ma non è mica obbligatorio. Allora, abbiamo detto di Giancarlo Magalli all'inizio della trasmissione. Giancarlone ha telefonato, sai quando ci fanno le telefonate alla trasmissione di come Giancarlo no? Magalli? Certo. E a un certo punto non rispondeva nessuno e ha detto: ma che è stata a fa? State a scippare le vecchiette? Il comune era calabrese, titolo di tutti i giornali online, tutto è... I calabresi a quest'ora scippano le vecchiette. Chiamiamo Magalli! Pronto? Giancarlone? Chi è là? Ciao, qui è la Zanzara, come stai? Alla Zanzarona, bene, voi? Allora, tu sei diventato il nostro mito assoluto. Mito assoluto. I calabresi un po' meno. Ma che è successo? Sono tutti incazzati, ho visto dichiarazioni, cose, tutti incazzati. Sì, ma sai qual è il problema? Qual è? Che se uno fa una cosa, un altro la riferisce in modo sbagliato, un terzo la riferisce riferendosi a quello che ha sbagliato e sbagliando ancora, e alla fine... Ma com'è andata esattamente? Raccontaci un po'. Ma niente, io faccio una battuta anche stupida, siccome se la gente si lamenta sempre, non mi chiamate, io sto a casa, non mi chiamate, poi chiamiamo e non ci sono, ovviamente. Sì. Può succedere, può succedere. A noi, sì. Allora io ho detto: vedete come siete? Dite sempre che non vi chiamiamo. Poi, quando vi chiamiamo, andate in giro a scippare vecchi. Che ne so che è andato a fare. Ma com'è che ti è venuta in mente questa cosa delle vecchiette? Scusa, così, per dire un'attività che poteva giustificare. Ma tu sai che in Calabria, che qualcuno perfidamente ogni tanto dice Calabria Saudita, se tu gli dici che questi non lavorano e vanno a scippare vecchiette oppure non fanno questi. Ma io non mi sono riferito ai calabresi. Non ho detto in questo paese, no, assolutamente. Non ho detto neanche, avevo detto prima. Cioè, dici, non ti riferivi alla Calabria? No, ma neanche. Dici, perché quelli che non rispondono, dici tu. Avrei detto la stessa frase se avessi chiamato Merano, Trento, Firenze, no, assolutamente. Non c'entrava proprio niente. Infatti, non faccio riferimento alla Calabria. Il paese che si è offeso solo perché era il paese di quello che non ha risposto. Però io non è che ho detto, di sto paese non rispondono, anticipano le vecchie. No, non è stato così. Solo che è stato riferito così. Aspetta, però risentiamo insieme il coso. Parenzo, pure tu, risenti con Giancarlo. Assolutamente. Risentiamo tutto. Aspetta, gioca che risentiamo. Se vi suona il telefono, rispondete fatti vostri. 2000 euro. Certo, l'ha fatta il signor Antonio di Casignana, provincia di Reggio Calabria, Ci abbiamo provato anche oggi, se poi voi andate in giro a scippare vecchie non è colpa nostra. Ma che dici? Lo fanno, stanno a casa perché a quest'ora si danno a queste attività criminali. Beh, effettivamente devo dire che non c'è riferimento diretto alla città. Ma no, ho detto in questo paese fanno le cose eccetera. Era un paese, adesso un'altra, la battuta stupida era che la gente non sta a casa perché chissà che baffa. Ma ti penti di aver fatto sta battuta? No, perché... Ho anche chiesto scusa, mi sono dispiaciuto. E che poi il giornale, no, il giornale, Vesuvio.it, roba... Sì, ma di tutto, anche associazioni di calabresi in Italia. Menaie, no? Sì, quello ha scritto Magalli offende calabresi, e non è vero. Poi l'Huffington Post, come cavolo si chiama? L'Huffington Post. Ma non lo dirigeva l'annunziata? L'annunziata, come no? Lo dirige ancora l'annunziata, certo. Sì, ancora? Sì. Eh sì, allora. L'annunziata che l'Huffington Post ha scritto Magalli, due punti, virgolette, quindi è una citazione testuale. Virgolette, ragazzi, i calabresi a quest'ora scippano le vesti, ma quando l'avete sentito, ho mai detto. Cioè, proprio veramente siamo però questo è normale, però merda che ci sia, però scusami, giornalismo di merda in alcuni casi è anche vero, non bisogna scusarsi però di nulla, perché ma effettivamente come no? Per come si deve scusare, ma si per come un popolo, ma quale popolo, chi è questo? Parenzo, per piacere, un popolo. Ma chi ha offeso il popolo? Ha detto semplicemente una battuta riferita al fatto che non rispondevano, non è che ha offeso i calabresi perché vanno rubati. Però scusatemi, ha offeso con un luogo comune molto bieco, peraltro, a generalizzare, i luoghi comuni sono sempre molto offensivi, molto, perché sono luoghi sono comuni, quelli più frequentati. Però scusami, qual è il luogo comune in questo caso? Rubare alle vecchiette non mi sembra nemmeno un luogo comune, cioè non è che una di quelle cose che si dicono, i calabresi sono dei scanzafatico, cioè non mi sembra, è una cosa detta così, cioè riferita al fatto che la gente non chiama. Se uno si sente offeso pure per questa cosa è finita, ragazzi, oh, ma mica è De Luca con la Bindi, cioè, no. Ma allora perché hai chiesto scusa? Scusami Gianca, dice Parenzo, perché hai chiesto scusa? No, chiamo la vigilanza, Che è successo? Chiamo la vigilanza. Che è successo? Chiamo la vigilanza. No, ma non mi frega niente. Che è successo, Gianca? Ma che ne so, saranno le iene o che cavolo. Ah, per romperti i coglioni, dici, per rompermi i coglioni sono speciali tutti. Poi quando io dico una cosa, tutta l'Italia autorizzata. Cioè, ormai c'è la coalizione dei calabresi. No, Parenzo dice, siccome hai chiesto scusa, Parenzo... Sì, ho detto che mi dispiace. Allora, però, se sei sicuro di quello che hai detto, non dovresti chiedere manco scusa. No, mi dispiace principalmente di essere stato equivocato a quello detto. Ho detto solo, non ho detto che i calabresi scippano le vecchie. Tutto qua. Se poi non capisci manco te, allora è inutile. Io capisco. Io capisco che tu hai chiesto scusa, il che vuol dire che hai ammesso di aver fatto una cazzata. Ci siamo? L'italiano è ancora la tua lingua. Ho detto mi dispiace, non ho detto che mi scusa. Ho detto mi dispiace. Mi dispiace vuol dire che Italia l'ha offeso, no? Che i calabresi abbiano inteso che io volessi parlare male di loro e che si siano dispiaciuti. Mi dispiace di Su internet, Giancarlo, su internet la frase che tu giustamente dici che non è vera è: non rispondono al telefono perché a quest'ora scippano le vecchiette sui calabresi. Questa è la. Non lo posso fare, sai, le gente i posti agguati non mi piacciono. Allora se no chiamo veramente. Ma chi è? Sempre le iene? Palle, guarda. Ma che so, le iene sempre? No, le iene, le televisioni che vanno sotto là. Parenzo giustamente dice, se uno non si sente colpevole, non dovrebbe chiedere scusa. La logica, come voi vi insegnate, la logica ha i suoi diritti. Capisco che questo personaggetto non ha logica. Chi è il personaggetto? Chi è il personaggetto? Cioè Magalli o personaggetto? Sì, vabbè, questo è il modo che hanno i semi falliti di sentirsi meno falliti, far finta di non riconoscere la gente. No, sto scherzando. Infatti è un modo denigratorio. Questo, ecco, è l'esempio classico che ti ho fatto, grande Magalli, è esattamente questo. Cioè, quando uno usa un metodo denigratorio come questo, chiaramente offende ed è offensivo. Sì, e quindi è ovvio che lo stavo facendo per scherzo. Tu denigri me, giusto? Hai un obiettivo. No, ma l'ho fatto per... Lui non ha attaccato la Calabria! Non ha attaccato la Calabria! Ma l'ho fatto come paradosso per farti capire che alle volte quando uno sfugge una battuta di troppo, giustamente si rende conto. Vabbè, ragazzi, ma non possiamo essere però tutti. Ho detto che mi dispiace. Ha fatto benissimo. Siccome Magalli è un signore che ha. Ai calabresi riconosco tantissimi pregi e un bravo che sono permalosi e lo stanno dimostrando. Ripeto, poi che sia una battuta poco felice, sono il primo ad ammettere. Ma no, ma devi essere te stesso, che è poco felice. Questi mo se ne vanno. Ma chi so? Chi so questo? Ma non lo so. Vabbè, ciao Giancarlo, ciao. Ciao Giancarlo, ciao. Ciao, grazie. Parenzo, ma dove cazzo vai? Ma se diventi sindaco, la zanzara, Chi ci mettiamo? La zanzara. I'm a real wild one. Wild one. mio figlio tredicenne, parlando coi suoi amichetti, dice: mi piace mio padre perché mi fa ascoltare sempre la radio dei pazzi. La radio dei pazzi è la Zanzara. Siamo al top. Parenzo, make Padova great again. Allora ragazzi, dove siamo? Giuseppe da Pescara, avevi sentito prima Magallone, mi sembrava la voce di Filippo Roma che è andato a rompere i coglioni a citofonare. È vero. Subito Filippo Roma, subito. Allora i calabresi. Va bene che si è buttato subito. Subito. Senti però, io una cosa che spesso facciamo in registrato, ma qualche telefonatina in diretta in questo cazzo di paese, com'è che si chiama sto paese della Calabria maledetto che Casignana in Calabria. Io non direi soltanto maledetto, magari, no? Perché abbiamo già tanti problemi con tante autorità, col Vaticano, capito? Vabbè, Casignana, dai, sì, ci sarà un po' di 'ndrangheta, ma non mi pare che sia un posto così. Dov'è? Provincia di Reggio Calabria, sì, no? Effettivamente possono sorgere dei problemi di solito. Ma lì poi la gente non ha uno spirito dialettico, ha più uno spirito da pistola. Allora, ti mettono in un pilone del sì, no? Sì, allora facciamo qualche numero di Casignana per capire come è andato oggi lo scippo delle vecchiette. Io direi questo. Qual è lo score, il bilancio? Beh, mi pare un'ottima idea questa. Giusto per inimicarci un altro piccolo paese, sì, in giro per l'Italia. Bisogno, abbiamo tanta gente che ci vuole bene, è giusto. Allora Giuseppe, intanto vai, mentre facciamo il numero, sai, fare i numeri è complicato. Vai Giuseppe, vai, dimmi. Sì, ciao. Allora dimmi. Sono in diretta con Radio dei Matti, giusto? Dai Giuseppe, dai, non farlo spiritoso, sì. Su, che non abbiamo bisogno di... No, volevo darti una chicca per quanto riguarda le mutande e i calzini usati, cioè già sporchi. E c'era un signore che ha detto che li portava per 3-4 giorni. Io gli consiglio di, arrivato il quarto giorno, di rigirarli, così può usarli altri 4 giorni, visto che... Non ho capito, giusto. Che cosa vorresti fare? Girare le mutande per riutilizzarle? Non ho capito. Esatto. Beh, amico mio, però in questo questo non lo faccio nemmeno io, che pure non sono un campione della pulizia. Cioè, girare le mutande addirittura, ma stai dicendo per scherzo o sul serio? No, sto scherzando. E allora che cazzo lo dici a fare, scusa? Perché non si possono portare le mutande. Cioè, tu praticamente non hai un cazzo da fare, chiami la Zanzara così per parlare con noi, eccetera, esatto. E dici una cosa che così, che non è né spiritosa nulla, cioè rovesciare la mutanda per riutilizzarla. Vabbè, ho capito. Giuseppe, per carità, ti abbraccio. Davide da Bologna. Ciao. Dai, Davide, dai. Aspetta un attimo, fermo. Sfiga come Magalli, non risponde nessuno qua. Mortacci loro, manco la sera. Che cazzo stanno a fare in questo paese, in Calabria, a quest'ora? È 20:02, dovrebbe essere tappati in casa per vedere il TG1. Cioè, normalmente è così, TG1, cioè TG1 a casa. Dai, su. Francesco da Siena, vai, Francesco. Pronto, sono in linea. Sì, sei in linea, vai, dimmi. È l'ospedale psichiatrico, perché levato che Parenzo, ragioni sempre te. Non capisci niente. Sì, di che cosa? Anche non capisco sul niente. Fatto del becco, ha ragione Parenzo. Di chi? Ma qual è l'uomo che del becco, del cornuto, si sente veramente colpito nell'intimità? Ma stai scherzando, Crociani? Sì. Sei un ipocrita. Sì. Poi... Evviva Parenzo, perlomeno è un uomo che ha la testa sulle spalle. Ma cosa ti riferisci tu? Si può dire, ma non ipocrita. Sicuramente Cruciani non è un ipocrita, è uno a cui piace. Cosa ti riferisci, Francesco? Mi riferisco al fatto che quel signore ha chiamato, che la moglie sa che è becco e è anche felice. Ma si sta scherzando veramente? No, c'è gente che adora essere cornificata, gente che... Ma no, ma dai Cruciani, via, allora non sono normali, dai. Ma non sono normali, sono persone normalissime. Sarai tu normale, invece. Sarai tu normale. Io ho ancora un minimo di sentire. Ma poi tu non sai. Ma tu non sai nulla. Ma tua moglie ti avrà cornificato mille volte, te lo dico io. Ma senz'altro, però. Occhio, non vede, cuore, non non duole. Ma Crociani, no, ma anche tu avrei fatto qualsiasi cosa. Ma Crociani, non tu capisci nulla, dai, via. Avrei fatto tu anche, avrei fatto qualsiasi. Passami tua moglie, passami tua moglie. No, ti passo proprio niente. Passami tua moglie, vergognati, passami tua moglie, che le dico tutto. Dico tutto quello che penso. Quanti anni ha tua moglie? Quanti anni ha? Quanti anni ha? Parenzo, che è più intelligente. Parenzo sta qui. Fatti passare la moglie. Tu sei di fuori o Montegolo, Crociani, come dicono in Toscana. Che vuol dire che tegolo? Come una tegola? Che sei fuori come un tienilo, balcone. Tienilo là, tienilo lì, tienilo, tienilo. Dai. Oh. Fratello mio? Francesco, abbassato. Davide da Bologna, vai Davide. Davide. Oh, Davide. Dai, forza. Pronto? Davide, dimmi. Pronto? Dimmi. Pronto? Oh, dimmi. Senti? Sì, ti sento, avanti. Scusa. Io sono intervenuto solo per dire che sì, voi parlate sempre di pisciare nel lavandino. Che è no, sempre, non esageriamo, ragazzi. È tre giorni che parliamo di qualsiasi cosa. Adesso è ritornato oggi questo argomento perché ho detto all'inizio di una puntata, mandando un messaggio di un ascoltatore, che è mia usanza, insieme a quella di tanti ascoltatori, sto vedendo, di annusare la mattina i calzini per vedere se sono rimettibili, che riutilizzabili. Un'altra volta mi darà sostegno il mio amico Corona, che sicuramente ci sta ascoltando, che ha le stesse usanze e forse i calzini manco si rimette, anzi sì, si spesso. Ragazzi, Corona è un ottimo montanaro, un grande scrittore, un intellettuale, ho capito, ma ragazzi, ma se io, ma non si mette a propagandare il verbo del, e poi vive da solo, no, tra l'altro, perché non ha la moglie, sta giù. Scusa, lui, ma sta saranno su cazzi miei il fatto che io la mattina vedo. Io non concepisco il fatto che tu puzzi come una capra, dopodiché non me ne frega niente, perché io sto a Roma, ora sto a Pordenone, tu stai a Milano, se è contenta la adorabile ragazza che ti si accompagna ormai da tempo, io, ragazzi miei, ma che devo fare? Se lei è felice di sapere che il suo fidanzato adora essere incornato, ragazzi miei, ma va benissimo, fate voi, ma no, non puoi dire che gli italiani sono, vogliono essere cornuti, perché non è vero, non ne conosco. No, uno. Lei utilizza la parola slozzo, che significa sei lurido, puzzi, sei lurido, questo. Chi te lo dice? Eleonora dice così, slozzo, sei lurido, vabbè. Davide, che stavi dicendo, dai? No, io l'unica cosa volevo dire, io condivido molte delle tue abitudini, per esempio quella di non farmi la doccia perché trovo che lavarsi troppo dia fastidio, tutto quello che vuoi. Piscio poco nel lavandino, ma un'abitudine che ho, perché mi piace avere l'orello sempre bello limpido, bello pulito, è quello di lavarmi il culo nel lavandino. Ma questa è buona, questa è buona. Cioè, ti stai dicendo in qualsiasi che lavandino. Parezzo, tu ti lavi ogni tanto il culo nel lavandino? E io, scusami, non ho capito la domanda. Ti lavi il culo nel lavandino, sembra il sì e no al referendum. Ecco, esattamente. Io sono per il comitato del no, nel senso che io sono per usare quello che diciamo la tradizione ci ha insegnato a usare, che sono i bidet, che è l'evoluzione, l'Occidente si evolve anche con i bidet. Beh, in alcuni paesi, come sai, non ci sono i bidet, non ci sono i bidet. Comunque. Sì, ecco, questa è infatti l'unica cosa che distingue. Comunque, Davide ti sta raccontando che ogni tanto si lava il culo nel lavandino. Devo dire la verità, mi è successo anche a me in rarissimi casi. Io lo faccio con metodo, se non trovo il bidet. Vabbè, se non trovi il bidet, però che c'entra? Se non trovi il bidet, certo, da qualche parte, essendo italiani abituati a pulirsi il culo anche con l'acqua, soprattutto con l'acqua, è evidente che dirottiamo sul lavandino. Io spesso, quando mi trovo all'estero, soprattutto negli alberghi, ovviamente dove non c'è il bidet, mi pulisco il culo abbondantemente nel lavandino o nella doccia. Ottimo. Ma questo mi pare ottimo, normale, assolutamente. Antonio Reggio Emilia, ciao Davide, ciao. Antonio, vai. Cruciani, Antonio Reggio Calabria, non Reggio Emilia. C'ho scritto Reggio Emilia, scusami, Reggio Calabria, dai. È uguale, tanti calabresi, è pieno di calabresi, Reggio Emilia, hanno fatto pure l'Andrangheta là. Hanno portato sezioni dell'Andrangheta a Reggio Emilia, come hanno aperto le sezioni del PD in tutta Italia, anche a Reggio Emilia hanno aperto sezioni dell'Andrangheta, perché sono calabresi, non è che sono... stai aprendo tu la sezione dell'Andrangheta, dove l'hai vista? Io no, a Reggio Emilia ti assicuro, ci sono pure dei processi, è pieno di andranghetisti, pieno, non sto dicendo che tutti i calabresi di Reggio Emilia sono così, sto dicendo che hanno aperto delle sezioni dell'Andrangheta. Fermo. Ma poi parli male di Casignana, parli male di... No, non ho parlato male di Casignana, non ho detto niente, ho detto questo lo cazzo di paese, no? Ma perché? Meditando. Che ho detto? Ho detto che non rispondono al telefono, ma pazienza, uno. Non rispondono, non ha risposto chi hai chiamato tu, ma non che tutti alle 8 ma dove sì, sono, ma dove è una sono, battuta, dove sono, e dai Antonio, su. Ti sei mai stata a Casignana? No, francamente no, e non ci voglio andare a Casignana in provincia di Reggio Calabria, non ci voglio andare. Non ci voglio andare perché non, non me ne frega niente di andare a Casignana. Ho tanti posti da andare a vedere. Non ci vado, non vado a Casignana. Non ho niente contro Casignana. Non voglio andare a Casignana. E allora non denigrare Casignano. Ma non lo sto denigrando. Vabbè, ma che vuoi? Che vuoi, Antonio? Perché hai chiamato? Qual è il tuo? Qual è la... Ho chiamato perché mi dà fastidio che parli male, che denigri la Calabria. Denigro. Aspetta un attimo. Sta zitto, Antonio. Hai detto abbasso il volume. Zitto. Pronto. Sì, buonasera. Pronto? Sì. Sì, buonasera. Quante vecchiette sono state scippate oggi? Che cosa? Quante vecchiette ha scippato oggi? Forse lei ha sbagliato. No, che ho sbagliato? Ma siamo impazziti. È usanza a Casignana lo scippo alla vecchietta all'ora di pranzo, amica mia. Quante vecchiette sono state scippate? Ma io non lo so perché io sto in campagna. In campagna? Sì. In campagna? Che ci sta a fare in campagna Casignana? Abito in campagna. Vabbè, ma scippano pure lì, scippano. Non è che non scippano, amico mio. Sì, ma io sto in campagna. Ma lei lei ci dovrebbe dire oggi all'ora di pranzo quante vecchiette sono state scippate e quante ne ha scippate lei. È usanza di Casignana. Lei non lo sa che c'è questa usanza? Conosce Casignana? Ma io sto vicino al mare, non sto a Casignana. Vabbè, ma lei conosce Casignana? Com'è la situazione criminalità, caro? Sì, com'è la situazione della criminalità lì a Casignana? Esiste l'andrangheta, la camorra, la mafia? Ma io di queste cose non mi intendo. Non ti intendo, esiste, intende. Tutti così rispondono di volta. Esiste l'andrangheta o no? Io a Casignana, esiste l'andrangheta? Ma non lo so, io di queste cose non me ne intendo. Lei la conosce? No, può dire che l'andrangheta fa schifo. Va bene, la saluto, arrivederci. No, che saluta? Che saluta? Che è impazzito lei? Saluta. Non è che uno può salutare così facilmente. L'andrangheta. Ma lei chi è? Scusa. Ma che stiamo impazziti? Chi sono io? Ma lei sta scherzando o sta dicendo sul serio? Non lo sto dicendo sul serio. Mi dica per favore, l'andrangheta fa schifo. Mi dica, l'andrangheta fa schifo. Ma questo lo sta dicendo lei? Ma io lo dico, certo che lo dico forte, lei lo deve ripetere, chiaro, lei deve ripetere. L'andrangheta fa schifo. Me lo ripete, per favore? Pronto? Pronto? Vergogna, ma non dico, nessuno lo dice. Vergognatevi, a Casignana, vergognatevi. Antonio? Antonio? Oh, lo dico io che sto. Ma hai capito che succede a Casignana? Non ti dicono nemmeno che l'andrangheta fa schifo? Hai capito come sono? Ma Cruciani, l'andrangheta l'hai vista tu? Dimmi, dov'è? L'hai vista tu? Ah, non esiste. Non esiste. Stai mettendo tu in gioco. Mamma mia, guarda, mamma mia. Gli scippi, Cruciani, succedono, ci sono a Milano, ci sono a Padova, ci sono a Roma, ci sono in tutti i posti. Vabbè. Ma dai, che era una battuta di Magali, non rompere i coglioni, Antonio, ciao. A me questa fogna piace ogni giorno di più. La Zanzara. Ma chi te vota a te, Parenzo? Ma neanche tua madre te vota. Scusa Cruciani, ti posso fare una domanda? Io vedo, sono qua in centro Padova, e ci sono delle tende dove in centro Padova proprio stanno pregando tutti i musulmani. Da un'altra parte della strada ci sono tantissime proprio rom, camper, tutti ammucchiati. Ma non è che Parenzo è già diventato sindaco di Padova? Servi di bitonci fuori, senza dubbi neri pensamenti, Padova bella e libera, con Parenzo. Direttamente dal semaforo di Centro Giotto, sto sognando una Padova con Parenzo sindaco. Vai Parenzo! Parenzo, rassegnati, De Luca è De Luca e tu non sei un cazzo. Noi siamo qua, sempre con te, unica fede in tutto il mondo intero. Io ti amerò, ti sosterrò, ovunque andrai, David Parenzo. Ciao Cruciani, sono in spiaggia a Sydney, a Bondi, e anche da qui voto Parenzo. Si può proporre il reato di voyeurismo stradale per quegli stronzi che guardano l'incidente nell'altro senso di marcia e creano la fila? Grazie. Traffico. OneExpress.it. Il pallet network italiano che viaggia in Europa. Vi presenta La Zanzara. ragazzi, quell'imbecille di Lennox Ferrone, lo conoscete il signor Lennox Ferrone, no? Quel specie di neonazista, neofascista che c'ha pure una svastica tatuata sul petto, almeno così appare in alcune foto, magari poi si è fatto sopra, no, il disegnino apposta per essere più imbecille. Campione mondiale di uno sport che si è inventato lui, praticamente denunziato da Parenzo per le sue idee, ha incontrato Gio Formaggio. Cioè si è unito. Beh, dai, i cervelli si incontrano, ci vuole la lente di ingrandimento per parlare. Potrebbe, se non attaccare Formaggio così, perché non è affatto stupido. Ti vorrei invitare anche a parlare magari stasera in quell'incontro che devi fare insieme al dottor Felti. Comunque no? Ferrone ad Albettone, questa è la notizia. Lennox Ferrone, che non si capisce per quale motivo si reca ad Albettone. Perché non ha niente da fare. Trust, grande brainstorming ad Albettone, senti. Eccoci qua, sono arrivato qui nel comune di Albettone. Come vi avevo promesso, il viaggio è andato benissimo. Abbiamo incontrato il grande sindaco Gio Formaggio con tutta la cittadinanza di Albettone. Davvero un paesino molto accogliente. È un paese che ti fa sentire davvero patriota, ti fa sentire italiano. Attenzione, forse non l'ha nemmeno incontrato, però non l'ha nemmeno, cioè è andato ad Albettone così a cazzo di cane, capito? Cioè, l'ha schifato pure Formaggio. Cioè pure Formaggio l'ha mandato a fare in culo, credo, non so se ci sono delle immagini, non si... Auguriamocelo. Senti, mamma mia ragazzi, io questo qua lo voglio vedere proprio, sono come te, cioè può dire quello che vuole secondo me Lennox Ferrone, ma deve in qualche modo, qualche sofferenza la deve avere il signor Lennox. Certo. Forse forse dobbiamo perseguitarlo noi, forse è nostro compito. Lascia, però il martirio deve essere nostro. Presto avrete anche delle grandi notizie da parte mia, perché io con il sindaco, con il grande, con l'immenso Gio Formaggio, stiamo cercando di organizzare una manifestazione qui ad Albettone che richiederà la mia presenza, dove io ne sarò onorato. Allora, caro Gio, so che ci senti spesso, amico mio, lo dico con senza paura di essere etichettato, eccetera. Amico Gio, non dare retta a questo personaggio. Hai già i tuoi problemi, hai già i tuoi guai, qualcuno ti vuole denunciare, la Digos. Non ti unire a questo personaggio ributtante, ma non per quello che dice, non me ne frega niente, una barzelletta, è un personaggio ridicolo. Ti prego, non peggiorare la tua situazione. Comunque, prosegue Ferrone. Bellissimo paese, curato nei minimi particolari, cittadini amabili e affabili, cioè gente davvero con il cuore, veri e propri cittadini italiani e patrioti. Io dal Bettone vi saluto, vi mando un abbraccio, vi invito a visitare questo splendido paese nella provincia di Vicenza e ci vediamo alla prossima. Allora ragazzi, questo era l'incontro che c'è stato, in realtà che non c'è stato, tra Ferrone e spero che lo schifi Formaggio. Che miserabile. Però io, Parenzo, chiamerei un signore che ha fatto il sindaco in un posto che credo si chiami Isola Liri, insomma credo che sia in provincia di Latino, Frosinone, da quelle parti lì, insomma nel Basso Lazio, il quale ha subito una rapina abbastanza forte negli ultimi giorni, abbastanza pesante, insieme alla moglie hanno rubato tutto, oro, argento, pistole puntate, pare romeni, eccetera. Il quale ha dichiarato che vorrebbe l'impiccagione in piazza. L'impiccagione. Il tizio si chiama come me, Giuseppe Pistilli. Io proverei ad intercettarlo. I'm on the back street, taking love with my kid. Pronto? Pistilli? Chi è? Buonasera, qui Radio 24, salve. Sì? Pronto? La disturbo? No, dica. Senta, volevo capire innanzitutto se ci può riassumere quello che le è successo, purtroppo, questo fatto grave, insomma, no? Che cosa le devo dire, quello che è successo? Sì, mi sembra addirittura che le hanno puntato a lei o non so a chi delle una pistola in fronte, no? Sì, a me che a mia moglie. Ma quanto è durato il tutto? Un'ora e quaranta. Siete stati praticamente sequestrati per un'ora e quaranta? Sì. Ma quanti erano questi delinquenti? Quattro. Ha pensato di morire lei? In quei momenti si pensano tante cose, anche questo. Ma cosa chiedevano in queste ore 40? Chiedevano soldi, oro. E alla fine se ne sono andati rubando che cosa? Soldi, oro e olio. Anche l'olio si sono portati via. Cioè alla fine lei è stato costretto praticamente a dare tutto? Tutto. Anche le fedi, anche quello che portavamo addosso. Ma ha aperto delle casseforti? Cioè... Sì. Ci hanno minacciato con la pistola. Ma che nazionalità erano, scusi, sindaco? tra di loro sì. parlavano straniero. Ma tipo dall'est? Credo, per quanto posso ma non ci posso mettere la mano sul fuoco, potevano essere rumeni. Potevano essere rumeni, ma non ho capito se è una cosa, è la prima volta che le succede? Sì, sì. Cioè, poi a noi invece hanno parlato un buon italiano. A voi un buon italiano. Ma cos'è questa storia della taglia? Lei ha messo 5.000 euro di taglia. Io ho messo 5.000 euro di taglia, di compenso a chi potrà fornirà delle informazioni, darà delle informazioni che possano consentire sì. la cattura almeno di uno di questi quattro. Cioè lei di tasca sua tira fuori 5.000 euro? Sì. Come sono entrati? Questa è la domanda. Sono entrati perché io stavo in cucina a leggere vino al fuoco e avevo da chiudere la persiana per poi metterla là, perché avevo l'allarme interno e esterno, quindi avrei messo quello esterno sulle persiane, però se non chiudevo prima la persiana, come sono uscito per chiudere quella persiana, mi stavano aspettando là fuori. Subito. Scusi un attimo, ma questa storia che lei ha detto che impiccherebbe in piazza questi ladri, è vera? Ma come no? Ma come si fa? Io sono incazzato nero. Come si fa a non essere sicuri a casa propria? No, giusto. Dunque lei se li trovasse, l'impicche fosse per lei. Ma se potessi farlo, lo farei. Sì, e quindi adesso mi rendo conto di chi io non ho armi, ma chi in casa ha la possibilità di difendersi con le armi e di ammazzarli. Poi troviamo il giudice di turno che condanna invece il cittadino onesto per eccesso di legittima difesa. Non è possibile una cosa del genere. Cioè, perché sono cose che non è che sono successe a me, stanno succedendo in tutti i paesi, in piccole, grandi, le città, in tutta Italia. Non è possibile una cosa del genere. Cioè, se lei avesse avuto una pistola in mano in quei momenti avrebbe sparato tranquillamente. Ma se l'avesse, intanto non ho armi, in quel momento come si sono svolti i fatti non avrei avuto il tempo, anche se l'avessi avuto, di prenderla. Ma se avessi avuto il tempo, perché stando dentro avrei sentito il coso, il rumore di qualcuno che era penetrato, sicuramente l'avrei sparato. Dunque, se fossero presi per lei la cosa migliore sarebbe basta, impiccagione in piazza da esempio. Ma magari, forse è che non succede. No, ma io scusi, capisco lo shock della persona che ha subito questa. Ma adesso e quindi d'accordo, ha subito questo shock, questa cosa violentissima e pazzesca. Ma chiedere l'impiccagione in piazza, parlare di pena di morte. Bisogna dare un esempio a questa gente. Ci vuole la certezza della pena. Allora, vogliamo fare qualcosa? Quello, invece i politici con quella faccia di culo che hanno tutti quanti. La certezza della pena innanzitutto, la certezza della pena. Ma questo e secondo, ma chi ci diventa in casa? Se qualcuno entra dentro casa sua, lei che fa? Dice venga avanti. Se qualcuno viene a violentare sua figlia, che cosa gli dice? Vabbè, ma ha ragione. Ci vuole la certezza della pena, prima cosa, e secondo ci vuole una legge che tuteli il cittadino. C'è qualcuno che direbbe perché si è violentati nella propria intimità. Pistilli, qualcuno direbbe, forse compreso Parenzo, perché non ha chiamato i carabinieri? Cioè perché i carabinieri li ho chiamati dopo, mica li potevo chiamare mentre stavano qui. Ma io questo lo capisco, io non critico nulla, critico semplicemente quando lui addirittura dice sotto shock sarebbero da impiccare in piazza. Sì, ecco, questo un esempio, perché bisogna dare un esempio a questa gente. Cioè, non è possibile che ci sia l'impunità. Si fa nei paesi l'impiccagione, ma io capisco lo shock che lei ha subito. Lo lui ripeto. Dice che ci vuole un esempio. Ma cosa vuol dire? Ma l'esempio è la pena, l'esempio è il carcere, non cosa vuol dire l'impiccagione, la pena di morte. Ma che stiamo scherzando, che siamo dei barbari, siamo. Loro però possono ammazzare. Se mi avessero ammazzato, come hanno ammazzato tanti altri. Ma queste sono cose da considerare. Entra dentro casa, viola un diritto, e il diritto del cittadino è di difendersi. Che cosa c'è mette, di infatti chi lo mette in dubbio questo? Nessuno mette in dubbio il diritto del cittadino, nessuno lo mette in dubbio il diritto del cittadino. Ma lei cosa farebbe adesso? E il cittadino come fa a difendersi? Come si deve difendere? Vabbè, sindaco, arrivederci, grazie. Allora ragazzi, si sono presentati dei signori qui alla radio, caro Parenzo, con un cartonato in tuo onore. C'è il cartonato. Pensavo fosse un fotomontaggio questi ragazzi che hanno twittato. Simpatici, bravi. No, ma un cartonato, addirittura hanno fatto delle magliette con la tua faccia, con scritto sopra Hop. Come l'ha fatta? La ricordi, no, la faccia di... No, dagli una mancia, poi ti facciamo tutto. Ma come una mancia? Conto. Che so, dei cosi, che so, i rom per no, strada, che so. Dagli una mancia. Ma che sei scemo? Ma questi ti sputano in faccia una mancia. Dai, gente, è gente ricchissima. Ma che cazzo gli hai? Tu subito 50, subito monetizzi. Sei proprio un verme. No, dagli, abbiamo già ma fatto che do una mancia? Non do nessuna mancia. Abbiamo già fatto chiesto di richiesto finanziario, rimborso. Allora, ho chiesto preventivamente i rimborsi elettorali, ha fatto bene secondo già, me? Già, sì, no, secondo me no, già ci sono, già ci no, sono, già ci sono le magliette con la faccia di Parenzo con scritto Hop sotto, altre sì. magliette sono in produzione con scritto Make Padova Great Again, e quella è stupenda, sì, va bene, va bene, tanto va deve bene. Essere trasversale la cosa, obamiani, trumpisti, devi fare una cosa trasversale, certo, attenzione, devi subito proporre una cosa secondo me. Più rom, più campi rom, è il metodo migliore per vincere, ti assicuro. Più campi rom a Padova. No, ma io questo, io sono per... Fermo che c'è la pubblicità, fermo che c'è la pubblicità. Sì. A Zanzara fa venire pensieri sporchi. Cruciani e Parenzo, facciamo una cosa a tre, vi prego. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading. Vi presenta La Zanzara. Ma ragazzi, in realtà, cioè, boh, dormire con la maglietta con cui sei stato tutto il giorno per me è veramente la normalità. Cioè, anzi, tante volte io per tre giorni ho la stessa maglia, ma cioè, per me non è nulla di particolarmente strano. Anche questa notte super luna piena e come al solito Lucio Mannaro ha colpito ancora, però ora sono rimasto a corto di rom. Parenzo, mandami un paio dei tuoi amichetti, altrimenti resto a bocca asciutta. Ma questo qua è il matto di Messina, Davide, eh? Questo è il matto di Messina che dice di andare a caccia di rom, caccia di rom. Comunque sto, sì, vabbè, quello lì è un miserabile che me l'ha asfaltato e la rivoluzione inizierà da Padova. Vedo sti ragazzi, queste belle facce, gente per bene, con la faccia pulita, la schiena diritta. Sì, c'è un gruppo di persone, un gruppo di persone, bravi, che ragazzi, sono fermi. Un ragazzo anche con la barba che mi ricorda tanto i miei amici imam, beh, molto bene, dico molto i tuoi bene. Amici imam, ma va a culo, i tuoi amici imam, ma che cazzo magliette di... della Fiom garriscano gli striscioni. Sì, devo dirti, devo dirti, Davide, che non ce n'è uno di Padova di questi signori qua, però sì, purtroppo, ottimo. Purtroppo per beh, te. Forse è un segnale, come dire, che c'è ancora da lavorare. Però ci sono spillette già pronte, spillette già pronte, Make Padova Great Again, con scritto Parenzo 2017. E ma chi sono questi geni? Chi sono questi disoccupati? Che, ma che cazzo ne sai che sono disoccupati? Magari sono gente normalissima. No, ma in questo momento sono la maggioranza silenziosa, dunque stanno zitti. Sì. Non vogliono parlare, sono zitti. Beh, giusto, certo. Sono a favore di rom, immigrati, cosa che tu farei venire a Valanga, a Padova, e dunque no, nessuno ti voterà. Città, come hai visto, come nessuno sta vedendo, ma c'è gente che fa il falce martello, fa il pugno chiuso. Il pugno chiuso, perché insomma quello deve essere uno dei tuoi slogan. Questo è il modo migliore per farsi votare. No, però piano ragazzi, perché in realtà è la città del santo. Noi siamo una forza tranquilla, ecco, per la forza tranquilla, cioè, fu un mito, fu uno slogan di Mitterrand di beh, tanti anni. Glielo suggerì io a François quando ci incontrammo tempo va, fa. Fa culo, va. Dai. Io allora già... Vincenzo da Napoli, dai Vincenzo, qualche ascoltatore, vai. Siamo una forza tranquilla ma rivoluzionaria. Qui c'è un sacco di gente qui in questo studio, eh. Io non voglio vedermi intorno, non voglio guardarmi intorno perché altrimenti mi deconcentro, ma c'è un sacco di gente e fra poco una sorpresa anche per te. Una sorpresa anche questa molto molto positiva, caro Parenzo, molto positiva. Non ti preoccupare, non ci sono solamente i signori con Make Padova Great Again, pro Parenzo, pro sindaco di Parenzo, cosa che tutti noi vogliamo fortemente, ti appoggeremo in questa grande battaglia. Tu, naturalmente, da sindaco continuerai a condurre la Zanzara, ovviamente dalle 6:30. Sì, non c'è alcun conflitto di interessi. Beh, in teoria ovviamente. No. In teoria. Anzi, sposteremo i consigli comunali alle 7:30 del mattino. Allora, Vincenzo, vai. Oh! Pronto! Vai, vai! Buonasera! Dimmi, c'è. No, no, chiamavo a quella cosa che ha detto quel signore prima che fa la pipì nel lavandino lì. Ma è una cosa normale questa, eh? Cosa? Fare la pipì nel lavandino? Sì, sì, io lo faccio pure a casa della gente. Ma vabbè, ho capito, ragazzi, però non puoi dire che è normale. Parenzo, di qualcosa tu, Vincenzo. Ma io pure a casa del mio amico. Ma no, ma tu a casa della gente che cosa fai? La pipì nel lavandino? Allora, se tu mi inviti a casa tua e devo andare nel bagno... E capito, ma c'è il bagno normale, c'è il water, non è che sì, c'è il lavandino. No, no, a me viene di farlo nel lavandino. Ma l'ho capito, ma allora, diciamo tutti, Vincenzo da Napoli. Allora, se invitate qualcuno a casa, Vincenzo, qualcuno riconoscerà la voce, quando lo invitate dovete sapere che il signore vi fa la pipì nel lavandino. Io non ti inviterò perché non sempre, però lo faccio. Ma perché lo fai? Perché? Perché mi viene così. Vabbè, allora Maurizio da Verona, vai Maurizio. Maurizio. Pronto? Sì. Pronto? Oh, e dai Mauri, forza. Niente, volevo porvi una domanda a tutti e due. Che differenza c'è tra le puttane che si trovano per la strada e le donne che si hanno a casa? No, ma io sono ubriaco. È ubriaco, no, secondo me è abbastanza ubriaco. Cioè, dice che non c'è differenza tra le prostitute che si trovano per strada e le donne. No, io credo che le prostitute per strada fanno un'opera sociale. Anche perché le donne che si hanno a casa non è che sono molto diverse, Cioè, tu dici, paradossalmente sono meglio, funzionano di più le donne che sono per strada piuttosto che quelle che sono a casa? Eh sì, ma quelle che sono a casa ti fanno i codici, senza che tu te ne accorgi, perlomeno. Che cosa ti fanno? Ti fanno Ti fanno le corna sistematicamente, non hanno problemi a farlo. Beh, per forza, quello... essendo lei ubriaco, è evidente. Scusami però, Maurizio, tu stai spiegando un concetto fondamentale. Le donne che sono a casa, secondo te, non sono addirittura peggio, cioè non c'è nessuna differenza. Ma sono peggio sì, perché ti dicono una cosa e fanno un'altra, invece la prostituta... Ma tu possiedi una moglie, una relazione? Sì, ne ho avuto 5-6 e bene o male tutte sono andate così. Adesso ovviamente sei da solo, come un cane, come un cane rabbioso. Sì, ma ci sto anche bene da solo. E frequenti solo puttane? No, qualche volta sì. Qualche volta. E dunque, ormai ti accontenti solo di frequentare puttane? Anche perché, ti ripeto, per esperienze mie acquisite non è che ci sia, anzi... spezzo una lancia a favore delle puttane, almeno quello sai che ti chiedono i soldi, lo sai che fanno per soldi. Le donne che tu hai a casa lo fanno anche loro per soldi, perché se hai soldi sei ben visto, se non ne hai sei un pezzente. E chi mi smentisce non so. Vabbè, Marco da Lecce, vai Marco, dimmi. Marco. Ciao, buonasera. Dimmi. Io intervengo per okay. Io ascoltavo oggi la aspetta Marco e qui c'è un signore che si è messo una maschera di Hitler. Parenzo, c'è un signore che si è messo una maschera di Hitler e chiama la polizia, dagli un pugno in testa. No, ma non è possibile, la maschera di Hitler, ma che cazzo fa? Ma chi è? Io essere figlio illegittimo del grande Adolf Hitler. Ma dico, ma chi è questo? Heil Hitler! Ma che, sei impazzito, è impazzito, ma chi è? Io sono il signor Mauro da Mantova. Mamma mia, è venuto pure qua, David. Beh, io ho studiato in studio l'instabile di mente. Cioè, ma è riuscito Scusate. Si è fatto una maschera di Hitler. Una maschera io di... Vedo una fotografia di un personaggio che... Meno male che è lì, ma come vai è lì? Io non riesco a capire, aspetta. Che fai? Avere il mio bel culo su faccia di merda di coglione, Parenzo, grande coglione. No, fermo. Ma questo qui si è pagato il via, fammi capire perché, per capire no, il livello è di qua deve per... stare sotto il mio culo. Scusami, ma è una cosa, non si può mandare in giro con la maschera di Hitler. Ma io sono... figlio legittimo! Ma questo è impazzito! Cioè, praticamente io questa qua non sapevo nulla di questa cosa della maschera di Hitler. Cioè, praticamente è venuto qua dentro perché dobbiamo fare una cena stasera. E si è messo. Ma con quel coglione? Anche, non so, con più persone, sì, con la maschera di Hitler. Signor Cruciani! Che cosa vuole, Mauro? Pretendo il coglione cappone perché io dovevo fare brodo! Lascia perdere, ma che brodo! Devo fare brodo di coglione! Hai uno stomaco forte, però, perché per andare a cena e aver tempo da no, perdere. No, lo stomaco forte ce l'ho io! Per fare brodo con un coglione come te, coglione! Cioè, tu andresti preso a schiaffi! A schiaffi, coglione! La cosa che mi stupisce di più è il tempo che hai da perdere con un instabile così. Montalo in macchina e lui dice: dove andiamo a cena adesso e tu lo prendi e lo porti dalla polizia. Dici, ma questa è la questura? Che cos'è? E no, il ristorante, c'è il ristorante dentro. Lo accompagna alla questura di Milano e lo lasci lì, vedrai. Ascolta, coglione. Ma togliti questa maschera, è una cosa, no, non è possibile. No. La maschera di Hitler, Parenzo, digli qualcosa, la maschera di Hitler. Io vado orgoglioso di avere la maschera. Ma è la maschera di Hitler. Ma, prova ad andare davanti alla polizia con la maschera di Hitler. È un grande statista, è no, stato. No, vabbè, ma non si può dire una cosa del genere. È stato un grande statista. Dai. Indipendentemente da quello che ha fatto, è stato un grande statista. Dai, finiscila. Non puoi negarlo. Sei uno dei pochi hitleriani ancora in Italia, dai. Come dei pochi? C'è pieno chi in America. Ma che pieno? In America sì, è vero. In America e allora, cosa stiamo dicendo? Vabbè, adesso ti mando la foto. No, ma non c'è la foto. Bastano i frame, eccetera. Lo denunci. Fai quello che vuoi. Con la foto di Hitler, dai. Luigi da Roma, dai. Luigi. Ti mando la polizia lì sotto, così ti evito la cena col pazzo. Dai, Luigi da Roma, vai. Pronto, Luigi. Dimmi. Guarda, volevo. Allora. È contento perché è un giorno di festa, capito? Vai, Luigi, dimmi. Pronto. Allora, guarda, vorrei venire con la maglietta. Una maglietta con la faccia di Parenzo e sottoscritto: se tutto va bene, siamo rovinati. In che senso, proprio scusa, peggio. In che senso? Non ho capito. Senso? Perché, guarda, Parenzo può sembrare una persona di buon senso, una persona a modo, misurata, però, guarda, nella sua, diciamo, rettitudine è un folle, è pericoloso. Perché, ad esempio, criminalizzare come fa lui la prostituzione, tout court, così, senza fare dei distinguo, cioè è una cosa pericolosissima. Pericolosissima. Perché significa non contribuire a regolamentare questo fenomeno. Ma io sono a favore della regolamentazione. Ma la regolamentazione significa aprire case chiuse, bordelli, consentire alle persone di scopare in maniera decente, o no? Sì, no, ma Parenzo poi è anche è a favore, però è anche contro, perché quando ci sono le deputate, senatrici, amiche sue, che dicono di essere... Chi lecca il culo? Dai, su. No, credo che non ci siamo capiti. Io ho detto sempre che sono per combattere lo sfruttamento della prostituzione, è innegabile che ci sia. Però a questo punto tu come fai a permettere, diciamo, di combattere questo sfruttamento? Qual è la soluzione che proponi? La soluzione è esattamente l'apertura delle... a chiamare mentecatto, quello lì che va a scopare perché è esigenza di scopare. Quando uno ha voglia di scopare, non lo puoi fermare, Parenzo, rassegnati. Se uno ha voglia di scopare, gli parte il testosterone, l'ormone va avanti, capito? Quindi rassegnati. Ma io non mi devo rassegnare proprio di niente, perché infatti mi candido a governare e quindi a regolare questo fenomeno. Molto certo, la vedo dura, guarda, il nuovo Adolf Hitler della restituzione. Scusa se ti ho paragonato ad Adolf Hitler, però insomma si rischia, insomma, questa deriva pericolosa. Ma ragazzi, oggi c'è stata questa sentenza clamorosa che apre la strada a tutti i ricorsi possibili, dai. Maurizio, ma che cazzo fai, Maurizio? È tre ore che ti stiamo cercando. Ma come tre ore? Sono qui, ma sono andati via tutti gli zii. Allora, grande sondaggio sul sì e no della nostra inviata Maurizia Paradiso. Dove ti trovi, Maurizia? Dove ti trovi? Allora, Cruciani, sono qui in clinica. In clinica, di nuovo. Non stavi al bar. Dell'altra volta che continua a dirmi che devo andare in camera. No, sono l'infermiere. Cosa devo fare io? Devo tornare in? In? Camera. In camera. Maurizio, torna in camera! Maurizio, torna in camera! Cruciani, ti amo! Ma chi è? Cruciani, ti amo! Ma non Cruciani! Cruciani! Ma chi è? Scusa, chi è questo qua? Allora, te lo passo, è un povero disgraziato, un derelitto che c'ha in mano un foglio da 50 euro, adesso, aspetta, non ti faccio niente, dammi un attimo il foglio, faccio sentire il fruscio. Eccolo qua, adesso me lo metto nella garganta e vediamo se lo riprende. Ma chi è questo? Allora, è un signore, te lo passo, io mi sono messo il suo foglio da 50 euro nella Bernarda. No, ma ho capito, Maurizio! Dove l'ha messo? No, nella Bernarda dice che l'ha messo, no. Perché anni fa si è tagliato il pisello. Cruciani? Chi è questo Cruciani. Signore? Chi è? Dove si trova lei, in ospedale? Allora. Se mi trovo in ospedale, no. Ma che... Siamo dove qui al bar. Al bar dell'ospedale, dove siete? Siamo al bar. Siete al bar. Lei che mi sono messo i tuoi 50 euro nella Bernarda. Ma perché gli ha dato 50 euro alla Paradiso? Non ho capito. Perché l'ha messa nella figa. No, ma questo ho capito, amico mio, ma perché... Nel lavoro del mio dentista, Cruciani! Chi è questo signore che mi hai passato? Allora, questo signore come si chiama lei? Enrico, il signor Enrico, il foglio da 50 euro l'ho tirato fuori dalla Berni, senti? Stupendo. Eccolo qua. Puoi chiedere che cosa ha votato al referendum il signore? Il signor Zagrebeschi, il professor Zagrebeschi, che c'è lì. Ma 50 euro se ne faccio un pompino? No. Allora, ma al referendum, ascolta, ma se te ne faccio due di pompini, no, me lo lasci il 50 euro? No. Allora, il pompino si è svalutato. Cosa vota al referendum? Sì o no? Le passo Cruciani. No. Vota no al referendum. Perché vota no? Perché non crede più in quello che dice? Pensi? quello che dice Renzi non credo più. Non crede più, vuota no. Ragazzi, è tutto finito. Al bar dov'è Maurizio Paradiso è tutto finito. Aspetta, è tutto finito. È guardi, chi è che mi puoi passare anche signora, per un mini sondaggio? Signora, cosa vota? Un mini sondaggio, signor Cruciani, Radio 24, Radio 24, lei cosa voterà, sì o no? Non posso dirlo. Ma come non può dirlo? Segreto, segreto di voto. Ma che segreto di voto? Ma non c'è nessun segreto, buonasera, signora. Buonasera. Buonasera. Lei che buonasera. Cosa vota, signora? La signora che sta mangiando, è un segreto di voto. Senta, vai, gira, fai un altro giro. Ecco. Ma si faccia sentire, c'è da votare sì o no qui? Vado. Ah, il signore non va a votare, lo dica, dica Cruciani. Io non vado a votare. Non va a votare, Cruciani, non va a votare. Fai un altro giro, c'è qualcun altro o hai finito gli avventori? Mi sta chiedendo di fare un giro. Ah, allora, bene. C'ho sempre in mano la 50 euro del signore, non glielo ho più, me lo mettitele, sto guadagnando. Metteteli dentro adesso, la Bernarda. E adesso sa della mia Bernarda, non posso ridarglielo indietro. No, infatti, tieniteli. Ma infatti me le sono saluta tenuti, Parenzo poi. Che dobbiamo andare via, ascolta, saluta Parenzo. Saluta no, Parenzo, Parenzo, c'hai due occhiaie che sembri un panda, viva la figa, il sereno, il bus del culo arcobaleno. Ciao ragazzo, ci sentiamo lunedì, ciao, ciao a tutti, ciao. Zanzarosi, andate a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere, ridere. Siamo ad alti livelli qua, Radio 24. Libera la voglia di fare.